Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Torna protagonista lo scambio studentesco all'estero, oggi sulle frequenze di Radio 24 con una giovane studentessa attualmente di stanza in Francia che può vantare un'importante esperienza in fatto di Erasmus, lei che è già al suo secondo periodo di studi in Europa dopo una prima esperienza in Spagna. Grazie anche alla sua appartenenza al network internazionale di studenti Erasmus, vi possiamo garantire che oggi abbiamo per voi la testimone perfetta per instradarvi nella dimensione della formazione globale. L'approfondimento insieme al Ministero degli Esteri sui servizi consolari digitali per i connazionali residenti oltre confine aprirà la puntata odierna con un taglio come sempre di servizio e informazione per tutti coloro i quali vivono già fuori dall'Italia oppure progettano di andarci a breve. Eures Italia ci fornirà anche oggi una panoramica importante sui lavori più ricercati, mentre a chiudere ci saranno come ogni fine mese le vostre lettere con le vostre richieste di consiglio o anche suggerimenti per una nuova vita oltre confine. Partiamo ora per Parigi ed entriamo anche solo virtualmente in un'aula universitaria francese. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ha molto a che vedere con l'Erasmus in tempi di coronavirus. Nei giorni scorsi l'Europarlamento ha chiesto che i 165.000 studenti Erasmus Plus e i 5.000 volontari europei ottengano rassicurazioni sul rimborso dei costi sostenuti e sulla prosecuzione dei programmi. In una lettera indirizzata alla commissaria per istruzione Maria Gabriel, i membri della Commissione Cultura e Istruzione dell'Assemblea di Strasburgo hanno evidenziato che le comunicazioni dell'esecutivo comunitario, così come differenti approcci e la mancanza di informazione da parte delle agenzie nazionali, non offrono risposte chiare agli studenti Erasmus Plus e ai partecipanti al programma del Corpo Europeo di Solidarietà in merito ai rimborsi delle spese extra sostenute e il proseguimento del percorso formativo e di volontariato. Secondo gli eurodeputati, gli studenti dovrebbero essere aiutati a non perdere l'anno accademico ottenendo i crediti necessari attraverso lezioni virtuali. Allora, oggi a Toolbox arrivano le indicazioni utili del Ministero degli Affari Esteri dedicate a chi già risiede oltre confine oppure intende trasferirvisi a breve. Esistono servizi consolari dedicati ai connazionali nel mondo di cui è possibile usufruire anche attraverso internet, servizi che possono rendere la vita più semplice a chi si trova lontano migliaia di chilometri dalla penisola e non tutti sono abbastanza conosciuti. Luigi Maria Vignali, direttore generale per gli italiani all'estero della Farnesina, ci spiega quali sono i principali. Noi vogliamo avvicinare gli italiani all'estero ai consolati, alle attività consolari e vogliamo farlo soprattutto con servizi facili, accessibili anche a distanza, soprattutto pensando alla nuova mobilità, ai nuovi cittadini italiani all'estero che sono abituati a utilizzare servizi digitali in Italia e che vogliono ritrovarli anche una volta che si recano all'estero. Questo è un modo per collegarli più facilmente ai servizi che noi diamo. Il più importante di cui parliamo oggi è Fastit. Cos'è Fastit e soprattutto dove lo si può trovare su internet? Fastit è un portale, si può trovare a partire per esempio dalla pagina web del Ministero degli Esteri, ma ogni consolato nella sua pagina web ha Fastit. È un portale che consente l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, all'AIRE, attraverso una piattaforma digitale, quindi a distanza. Non solo l'iscrizione, ma anche la variazione anagrafica. Per esempio, se ci si sposta a seguito della Brexit dal consolato di Londra al consolato di Parigi, la variazione di questo trasferimento AIRE può essere registrata tramite questo portale e in prospettiva ovviamente vogliamo arricchirlo ancora. Attraverso il portale sarà possibile chiedere il passaporto o anche la carta d'identità inserendo i propri dati, quindi diventerà la vera e propria piattaforma di interazione fra il cittadino e il consolato. Ne stiamo aggiornando la grafica e fra poco contiamo anche di rilasciare delle versioni in inglese, spagnolo e in prospettiva in portoghese. Quindi diciamo sarà soprattutto, come dire, un ufficio anagrafe digitale per chi si trova all'estero e avrà anche altre possibilità di utilizzo? Sì, certamente, non solo registrare i propri dati, non solo chiedere documenti, ma in prospettiva anche prendere un appuntamento, per esempio, verrà tutto integrato in questo portale. Ci sono altri servizi consolari digitali, uno ha molto a che vedere con il passaporto, perché sappiamo tutti che fare un passaporto implica anche registrare dei dati biometrici che poi vanno nel passaporto. passaporto. Finora questo complica un po' le cose per chi magari si trova lontano da ambasciata o consolato, ma in prospettiva? Abbiamo già avviato un progetto di captazione dei dati biometrici a distanza, fornendo molte macchinette, circa 200, alla nostra rete di consolati onorari. I consolati onorari sono disseminati sul territorio molto più dei consolati di carriera. Pensa a grandi paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina, il Brasile o anche l'Australia, quindi a grandi distanze. Ecco, in quel caso fino a oggi il connazionale doveva prendere materialmente il treno o addirittura l'aereo e recarsi in consolato. Adesso si può recare al consolato onorario più vicino, prendere i propri dati biometrici attraverso queste macchinette e ricevere poi comodamente a casa il passaporto. Ne abbiamo rilasciati già circa 20.000 in questo modo di passaporti. Dal passaporto alla carta d'identità, altro documento fondamentale, e anche qui ci sono delle novità per quanto riguarda proprio i servizi consolari digitali. Quali? Beh, il rilascio anche all'estero della carta d'identità elettronica. La carta d'identità cartacea purtroppo non è più accettata in molti paesi perché è altamente falsificabile, ma noi abbiamo iniziato il rilascio della carta d'identità elettronica in 3 consolati sperimentali, ad Atene, Nizza e Vienna, e poi dopo anche in tutta la rete francese. Il connazionale, ottenuta l'appuntamento in consolato, deposita i suoi dati biometrici, però poi riceve a casa la carta d'identità preparata dal poligrafico dello Stato. Per maggiori informazioni www.esteri.it sezione italiani nel mondo oppure serviziconsolarionline.esteri.it. La testimone della settimana è una studentessa 23enne, attualmente di stanza a Parigi per frequentare l'ultimo anno accademico all'estero. Martina ha già alle spalle diverse esperienze di mobilità internazionale per la formazione e oggi è qui a spiegarvi come fare per seguirne l'esempio. Buon pomeriggio Martina Bo. Ciao Sergio, che piacere sentirti. Laurea triennale all'Università Bocconi in International Politics and Government con Erasmus a Madrid, poi la magistrale doppia tra Bocconi e Sciences Po a Parigi, motivo per il quale oggi sei in onda a Generazione Mobile. Esattamente quale programma stai seguendo e per quanto tempo in Francia? Sono a Parigi da un anno e si tratta di un double degree con specializzazione in affari europei, tutto in lingua inglese, quindi il titolo del master è proprio European Affairs and Europe in the World. Anticipiamo subito la domanda che stiamo facendo in questo periodo a tutti i nostri protagonisti, cioè come si sta vivendo in Francia e anche per chi studia come te in Francia ed è quindi temporaneamente all'estero questo periodo così particolare in tempi di coronavirus. Allora, devo dire che l'università si è mobilizzata subito preparando una piattaforma per farci seguire tutti i corsi online, quindi dal punto di vista accademico sono coperto, ho lezione tutti i giorni e manca un po' l'interazione umana, diciamo, perché ovviamente siamo obbligati a rimanere a casa. Fortunatamente faccio parte di un'associazione che si chiama SN e grazie a cui posso veramente interagire con amici da tutto il mondo attraverso attività online un po' più ludiche. Martina, tu sei una vera e propria veterana dell'Erasmus, non solo per i 2 periodi di scambio all'estero, ma anche per la tua appartenenza proprio ad Erasmus Student Network, che tra poco ci arriveremo. Chi meglio di te può fornirci dunque dritte molto preziose? Partiamo dalle basi, quelle di preparazione all'anno all'estero. A chi chiedere informazioni quando si decide di partire in Erasmus? Allora, prima di tutto all'istituzione partner, perché ovviamente fornisce tutte le informazioni essenziali che lo studente deve conoscere per partire e per vivere un'ottima esperienza Erasmus dal punto di vista dei corsi, delle offerte linguistiche e anche dell'alloggio. Inoltre c'è ovviamente il supporto della propria università. E infine direi il supporto di associazioni in loco che permettono di venire veramente a contatto con i membri del posto e quindi da un punto di vista più umano e ludico. Una tappa importante è la compilazione del cosiddetto Learning Agreement. Di cosa si tratta? Bravissimo, esatto. Allora, il Learning Agreement è un documento voluto dalla Commissione Europea, quindi essenziale per ricevere i fondi dell'Erasmus, e diciamo che è un accordo tra lo studente, la propria università e l'università partner dove si andrà a fare lo scambio. In particolar modo contiene tutte le informazioni riguardanti lo scambio e più precisamente i corsi che si andranno a seguire e che poi potranno essere convertiti una volta ritornati a casa. casa. È molto essenziale sottolineare che in caso ci fossero dei cambiamenti, magari alla fine quando si arriva all'università partner un corso non viene più offerto, il learning agreement può essere modificato durante il percorso. È necessario fare un test linguistico prima di partire? Anche da questo punto di vista, diciamo che è un'obbligazione voluta sempre dalla Commissione Europea, in quanto l'esperienza Erasmus comprende anche l'apprendimento di una lingua, e quindi prima di partire la Commissione Europea, attraverso la propria università, invia questo test linguistico per vedere il punto di partenza, e alla fine dell'esperienza del percorso bisognerà rifarlo, ricompilarlo, per vedere se effettivamente c'è stato un miglioramento. Un punto importante sono i corsi da seguire all'estero. Occorre sceglierli prima di partire. Su quali consigli di puntare normalmente? Come primo consiglio direi scegliere dei corsi che possano essere facilmente convertiti una volta rientrati, così da non dover sostenere ulteriori esami. Questo direi è un aspetto fondamentale, e volendoci si può anche confrontare con i propri professori per chiedere magari un'opinione. Inoltre magari cercare di sfruttare anche le diverse modalità di insegnamento per arricchire proprio a 360 gradi il proprio curriculum accademico. Quanto sono diverse queste modalità di insegnamento all'estero? Allora, dalla mia esperienza devo dire che rispetto al metodo frontale italiano, sia all'università in Spagna che in Francia ho trovato molteplici differenze. Prima di tutto un approccio molto più interattivo con gli studenti, quindi è necessario veramente interagire durante le lezioni, fare domande, vi è molto anche lavoro a casa, quindi leggere articoli, arrivare in classe preparati. Inoltre bisogna preparare numerose presentazioni, quindi si va a toccare skills come public speaking, le negoziazioni, relazioni diplomatiche. E infine devo dire che soprattutto qui a Parigi ho dovuto scrivere numerosi temi. Quali sono le differenze principali che hai potuto apprezzare tra il, chiamiamolo, semplice Erasmus che hai sperimentato in Spagna e l'anno di scambio in doppio titolo che stai vivendo a Parigi? Entrambe le esperienze mi sono piaciute tantissimo, quindi le rifarei entrambe. Però devo dire che con l'esperienza qui a Parigi, dovendo passare veramente un anno, ho avuto la possibilità di immergermi ancora di più nelle dinamiche universitarie o nelle dinamiche della città e di vita di ogni giorno, di vita quotidiana. Quindi da questo punto di vista credo sia stata molto positiva come esperienza. Inoltre ho veramente approfittato del network dei docenti per chiedere aiuti sulla tesi, per avere dei contatti molto interessanti. Devo dire che questo momento un po' più lungo mi ha aiutato veramente a farmi sentire a casa qui a Parigi. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Promo 24. La casa è un bene essenziale per ogni essere umano, per ogni cittadino. Il mercato dell'intermediazione immobiliare in Italia dà lavoro a oltre 46.000 agenti, a cui si aggiungono decine di migliaia di persone impegnate nell'indotto, con un impatto economico e sociale su centinaia di migliaia di famiglie. A beneficio dell'intero comparto, Remax Italia, gruppo immobiliare in franchising leader del settore, chiede al governo che le transazioni immobiliari, compresi servizi ausiliari quali mutui, perizie, traslochi, siano inclusi nelle prime attività che potranno tornare operative dalla fase 2, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite contro la diffusione di Covid-19. La casa degli italiani è da sempre nel cuore di Remax. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Martina Bo, studentessa 23enne attualmente a Parigi per un periodo di scambio legato al doppio titolo di laurea. Martina non solo sta vivendo questa importante esperienza oltre Alpe, ma alle spalle ha un primo Erasmus in Spagna e soprattutto è parte attiva della maggiore organizzazione europea di studenti Erasmus, ESN, il che la rende una preziosa dispensatrice di consigli per tutti voi studenti all'ascolto, pronti in un futuro speriamo prossimo a seguirne le orme. Riprendiamo l'ascolto. Generazione Mobile. Vita pratica in Erasmus, quali siti consigli per cercare alloggio a Madrid e quali a Parigi in un flash? In Spagna, come sito ho utilizzato Idealista. Mentre a Parigi a Partagé. Devo dire che comunque ci sono variati siti web, quindi non esistono soltanto questi due, ma li ho trovati molto affidabili e anche molto utili, quindi sì, consiglierei questi due. Parliamo ora della rete Erasmus Network, di cui fai parte come liaison officer nazionale per ESN Italia. L'abbiamo già accennata. In cosa può rivelarsi un supporto fondamentale quando si parte per un periodo di scambio oltre confine? Allora, devo dire che ESN dona veramente un supporto durante tutta l'esperienza allo studente in scambio. Prima di partire, per esempio, può fornire informazioni sul luogo, sull'università, sulla città, così che una volta arrivati non si è totalmente spaesati. Aiuta, per esempio, attraverso la ricerca di alloggi, mettendo in contatto lo studente con altri studenti internazionali per cercare eventuali coinquilini. E poi ovviamente c'è una parte di vita sociale dove si viene a creare un vero e proprio patrimonio umano, quindi grazie a SN si viene a contatto con ragazzi da tutto il mondo. Ci raggiunge ora in linea Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. In termini di scambi tra Italia e Francia, gli ultimi dati parlano di 51 Erasmus Mundus Joint Master Degrees approvati. Possiamo brevemente parlare di questo tipo di programmi e a chi sono rivolti? Allora, queste sono delle esperienze molto particolari dentro il programma Erasmus, sono quindi dei percorsi integrati ed internazionali che portano a un titolo che è riconosciuto in almeno due paesi oppure a due titoli dei paesi appartenenti a questo consorzio. Erasmus Mundus Joint Master Degree puntano molto all'eccellenza, quindi a valorizzare studenti quindi facendogli fare dei percorsi proprio di innovazione attraverso un curriculum aperto che si svolge in paesi diversi dell'Unione Europea, ma anche in questo caso, in questo tipo di programma, anche in altri paesi fuori dall'Europa. E a chi consiglia lei il doppio titolo, il programma appunto in cui è coinvolta Martina? Quali vantaggi porta? I vantaggi sono molti, li ha già detti Martina, senz'altro il poter vivere così, un'esperienza così a lungo e quindi fare un percorso di formazione, di studio anche in un'altra università ha ovviamente dei risvolti importanti, soprattutto come spendibilità del titolo in un altro paese e comunque diciamo, un'opportunità maggiore anche di occupabilità terminato lo studio. La pandemia di coronavirus ha modificato chiaramente abitudini e consuetudini a tutti i livelli. A livello di agenzie Indire, quali consigli date sia a chi attualmente si trova in Erasmus, sia soprattutto a chi sta progettando una partenza per il prossimo anno accademico, quindi dopo l'estate, considerate le tante, troppe forse incertezze? Il dato di fatto è che il programma Erasmus ha al cuore la mobilità delle persone, la mobilità degli studenti e quindi è chiaro che abbiamo avuto, diciamo, un momento di arresto che fortunatamente è durato in diciamo, un mesetto, non di più, perché come anche Martina ha testimoniato, poi molti dei percorsi sono continuati attraverso l'apprendimento online. Quindi questa idea di unire mobilità fisica, mobilità virtuale, è un modo nuovo che il programma ha ritrovato, ha reinventato e sarà molto probabilmente quello anche che verrà proposto a partire dal mese di settembre da parte della Commissione europea. Quindi cercare in qualche modo di andare avanti, perché il programma è un programma di valore che investe sui giovani, che investe sul futuro e sulle generazioni. Quindi se non si potrà, e noi invece speriamo che si possa già ripartire subito fisicamente, l'idea è forse quella di partire virtualmente e poi arrivare a concludere un periodo, in questo caso è possibile perché stiamo parlando anche di mobilità di lunga durata e quindi pensare di avere una cosiddetta blended mobility. Grazie a Sara Pagliai, abbiamo la nostra domanda di rito per Martina Bo. Il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero? Prima di tutto, aprire il cuore, non avere paura, perché l'Erasmus ti cambia la vita in termini di conoscenze, di skills, di rete di contatti, amicizie, quindi veramente è un'esperienza che rimane nel cuore. Quindi parti assolutamente. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Nuovo appuntamento con le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia. Laura Pitteri di Eures Italia. Oggi vi parlerò di alcune opportunità che Eures Trento sta gestendo per conto di enti di ricerca operanti in Trentino. In primo luogo vi parlerò di una posizione per ricercatori offerta dalla Fondazione Bruno Kessler nel settore della sicurezza informatica. Per questa posizione i requisiti richiesti sono un PhD in computer science, matematica o ingegneria elettronica. Viene offerto un contratto di 2 anni a partire da giugno 2020 con possibilità di iniziare a lavorare da remoto fino a quando l'emergenza coronavirus non sarà rientrata. Le candidature vanno presentate entro il 30 aprile 2020 attraverso la pagina Facebook fbk.eu nella sezione Jobs. Altre interessanti opportunità ci sono pervenute dalla Fondazione Edmund Mach, che opera nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione. Allora, in questo caso la Fondazione presenta 3 selezioni finalizzate alla costituzione di graduatorie da cui attingere per contratti di lavoro a termine, in particolare per 3 diversi profili, uno nel settore della chimica enologica, uno nel settore della fruttivinicoltura e protezione piante e una nel settore della trasformazione e conservazione alimentare. I requisiti richiesti in questo caso sono un diploma nel settore dell'agraria o agroindustria, oppure in assenza di questo una laurea triennale o quinquennale in ambito agraria o alimentare. In questo caso verranno offerte dei contratti a tempo determinato con un inquadramento di addetto tecnico di 4° livello. Scadenza per le candidature è il 4 maggio. Per candidarsi è indicato di entrare nella pagina della Fondazione MAC, fmac.it, nella sezione Lavora con noi. Se volete rimanere informati su future opportunità gestite da Eures Trento e Eures Italy, potete seguire la pagina Facebook di Eures Trento oppure la pagina Facebook di Eures Italy. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di generazione mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna anche questo mese l'appuntamento con le missive che inviate settimanalmente alla casella email generazionemobile@radio24.it. Lettere che alimentano la nostra community radiofonica dove scambiarsi informazioni per studiare, lavorare e vivere all'estero. Invitiamo fin d'ora chi abbia risposte per i nostri ascoltatori a scriverci in modo da poter aggirare loro queste dritte. Ascoltiamo adesso le vostre testimonianze, le vostre domande e le vostre richieste di consigli. Buongiorno. Mia figlia, PhD a San Diego, è in procinto di rientrare dagli Stati Uniti. Ha bisogno di alcuni chiarimenti, ma il mio fiscalista non se ne intende. C'è qualche associazione o blog o altro di cervelli in rientro dove si possa andare a pescare un esperto che la possa orientare? Grazie. Marco. Buongiorno, sono Giulio, ascolto spesso Radio 24 e Generazione Mobile è uno dei miei programmi preferiti. Vi scrivo perché studio agribusiness a Siena e il mio corso di studi prevede 6 mesi di tirocinio da svolgere in azienda. In questi anni di studio mi sono interessato all'agricoltura idroponica. Mi piacerebbe imparare di più effettuando lo stage negli Stati Uniti, in un'azienda che coltiva con questa pratica. In questi ultimi mesi ho provato a contattare tante aziende, ma ho ricevuto poche risposte, quindi vi scrivo per chiedervi consigli e istruzioni su come organizzare questa esperienza. Grazie in anticipo, Giulio. Sono un ascoltatore abituale di Radio 24 tramite internet. Da diversi anni vivo a Londra, dove opero come imprenditore nel settore digitale. Mi piacerebbe avere la possibilità di esporre delle idee sull'Europa partendo da una esperienza personale. Ricordo nitidamente la notte di Brexit nel giugno 2016. La fidanzata mi aveva da poco raggiunto dall'Italia. Mentre dormivo in tutta serenità, pronosticando un'agevole vittoria dei Remainer, la futura sposa consultava in modo frenetico i risultati.